Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Morrel era felicissimo. Il signor Noirtier lo aveva mandato a chiamare ed era così ansioso di sapere che cosa volesse che era partito correndo verso il Faubourg Saint-Honoré. «Maximilien», disse Valentine al giovane quando questi arrivò, «il mio buon nonno Noirtier aveva mille cose da dirvi e in questi tre giorni le ha dette a me. Vi ha mandato a chiamare perché ve le ripeta. Ve le ripeterò senza cambiare una sola parola. Ascolto con molta impazienza», rispose il giovane. «Parlate, signorina, parlate!» Valentine abbassò gli occhi. Questo fu un presagio che parve dolce a Morrel. Valentine si dimostrava timida solo quando era felice. «Mio nonno vuole abbandonare questa casa», disse. «Barrois, il suo fidato attendente, si occupa di cercargli un comodo appartamento. Ma voi, signorina», disse Morrel, «voi che siete così cara e necessaria al signor Noirtier?» «Io», riprese la ragazza, «non lascerò mio nonno. È cosa già decisa fra lui e me. Il mio appartamento sarà vicino al suo. O avrò il consenso del signore di Villefort per andare ad abitare con il nonno, o me lo rifiuterà. Nel primo caso, io parto subito. Nel secondo, aspetto la mia maggiore età, che sarà fra 10 mesi. Allora sarò libera. Avrò uno stato indipendente e domandò Morrel. «E con l'autorizzazione del nonno manterrò la promessa che vi ho fatto». Valentine pronunciò queste parole con una voce così bassa che Morrel non avrebbe potuto udirle senza l'interesse che provava nell'ascoltarle. «Non ho così espresso il vostro pensiero, caro nonno?» chiese Valentine rivolgendosi a Noirtier. «Sì», confermò il vecchio. «Fino a quel momento», continuò la giovinetta con la sua voce pura e severa, «noi rispetteremo le convenienze e la stessa volontà dei nostri genitori, purché questa volontà non tenda a separarci per sempre. In una parola, ripeto questa parola perché dice tutto, noi aspetteremo». «E i sacrifici che questa parola impone, signore», disse Maximilien, «vi giuro che li compirò, non con rassegnazione, ma con gioia». Noirtier guardava entrambi con tenerezza e Barrois, che era rimasto sul fondo come uno a cui non si ha nulla da nascondere, sorrideva asciugandosi le grosse gocce che gli scendevano dalla fronte calva. «Oh mio Dio, com'è sudato il buon Barrois!» disse Valentine. Noirtier indicò con l'occhio un vassoio sul quale vi erano una bottiglia di limonata e un bicchiere. Parte della limonata l'aveva bevuta lui mezz'ora prima. «Prendi, buon Barrois», disse la ragazza riempiendogli il bicchiere. «Grazie», rispose Barrois. «Muoio di sete e berrò ben volentieri un po' di limonata alla vostra salute». Barrois rovesciò indietro la testa per vuotare il bicchiere. Valentine e Morrel stavano salutandosi in presenza di Noirtier quando si udì suonare il campanello della scala di Villefort. Era il segnale di una visita. «Deve essere il dottore d'Avrigny per la sua visita», disse Barrois barcollando. «Ebbene, che avete dunque, Barrois?» domandò Valentine. Il vecchio non rispose. Guardava il padrone con gli occhi stravolti mentre con la mano cercava un appoggio per rimanere in piedi. «Ma sta per cadere!» gridò Maximilien Morrel. Infatti, il tremito da cui Barrois era scosso aumentava visibilmente. I tratti del viso, alterati dai moti convulsi dei muscoli della faccia, preannunciavano un attacco nervoso dei più violenti. Barrois fece qualche passo verso il suo padrone. «Oh mio Dio! Mio Dio! Ma che ho mai? Soffro! Non ci vedo più! La mia testa è trafitta da 1000 punte di fuoco! Ah! Ah, non mi toccate! Non mi toccate!» Infatti, i suoi occhi si fecero sbarrati e appannati, la testa gli si rovesciava all'indietro mentre la parte inferiore del corpo si irrigidiva. Valentine, spaventata, mandò un grido. Morrel la prese nelle sue braccia come per difenderla da qualche ignoto pericolo. «Signor d'Avrigny! Signor d'Avrigny!» gridò Valentine con voce soffocata. «Venite! Soccorso!» Thank you. Barrois cominciava a ritornare in sé. Anzi, essendo passata la crisi, si era sollevato su un ginocchio mandando profondi gemiti. D'Avrigny e Villefort lo portarono sopra una poltrona. «Come vi sentite, Barrois?» domandò il dottore. «Un po' meglio. Dove soffrite?» «Dappertutto. Provo terribili crampi. Avete vertigini?» «Sì. Tintinnio alle orecchie?» «Spaventoso. Quando è cominciato?» «Poco fa. Che cosa avete mangiato quest'oggi?» «Non ho mangiato niente. Ho bevuto soltanto un po' di limonata del signore. Ecco tutto.» «Questa limonata è la stessa che avete bevuto?» disse D'Avrigny indicando la bottiglia. «Sì, sì, signor dottore.» «Che sapore aveva?» «Amaro.» «E voi, signor Noirtier, ne avete bevuta?» Il vecchio fece segno di sì. «Le avete trovato il medesimo gusto amaro?» Il vecchio ripeté ancora di sì. «E vi sentite bene?» «Sì.» D'Avrigny si rivolse al malato. «Barrois», disse il dottore, «potete parlare?» Barrois balbettò qualche parola inintellegibile. «Fate uno sforzo, amico mio!» Barrois riaprì gli occhi. «Chi ha fatto la limonata?» «Io.» «L'avete portata subito al vostro padrone dopo averla fatta?» «No, l'avete lasciata in qualche luogo, allora.» «Nel tinello. Mi hanno chiamato. Chi l'ha portata qui?» «La signora Valentin.» D'Avrigny si batté la fronte. «Oh mio Dio! Mio Dio!» mormorò egli. «Dottore! Dottore!» gridò Barrois. «Soffoco! Il mio cuore! La mia testa! Quale inferno, mio Dio! Abbiate pietà di me!» E gettando un grido, cadde, come se fosse stato fulminato. D'Avrigny gli mise una mano sul cuore e avvicinò uno specchio alle sue labbra. «Ebbene?» domandò Villefort. «Morto.» Villefort indietreggiò due o tre passi, giunse le mani al di sopra della testa e con sincera commiserazione. «Morto così all'improvviso?» disse guardando il cadavere. «Sì, d'improvviso, è vero?» disse D'Avrigny. «Ma ciò non deve sorprendere. Il signore e la signora di Saint-Méran sono morti anch'essi in modo fulmineo. Ah, si muore alla spiccia in casa vostra, signor di Villefort.» «Che?» gridò il magistrato con accento d'orrore e di costernazione. «Voi ritornate alla vostra terribile idea! Sempre, signore, sempre!» disse D'Avrigny con gravità. «Essa non mi ha abbandonato un istante. E perché siate ben convinto che questa volta non mi inganno, ascoltatemi bene, signor di Villefort.» Villefort tremava convulsamente. «È un veleno che ammazza senza quasi lasciare traccia. Io lo conosco. L'ho studiato in tutti i sintomi, in tutte le conseguenze che produce. Questo veleno io l'ho riconosciuto poco fa nel povero Barrois, come già prima nella signora di Saint-Méran. C'è un modo, sapete, di riconoscerne la presenza. Guardate. Ecco, in questa tazza lo sciroppo di viole e in questa bottiglia il resto della limonata bevuta da Noirtier e da Barrois. Se la limonata è pura e inoffensiva, lo sciroppo conserverà il suo colore. Se la limonata è avvelenata, lo sciroppo diventerà verde. Osservate.» Il dottore versò lentamente qualche goccia di limonata nella tazza e si vide nello stesso istante formarsi sul fondo un cambiamento di colore che, prima azzurro, poi opale, indi smeraldo, si fissò in quest'ultimo. L'esperimento non lasciava più alcun dubbio. «L'infelice Barrois è stato avvelenato con falsa angostura o noce di Sant'Ignazio», disse D'Avrigny. «Ora lo asserirei davanti agli uomini e davanti a Dio.» Thank you. Cerca a chi è utile il delitto, dice un assioma di giurisprudenza, sentenziò d'Avrigny. Dottore, gridò Villefort, dottore, quante volte la giustizia degli uomini è stata ingannata da queste funeste parole? Io non so, ma mi sembra che questo delitto... Ah, ammettete dunque finalmente che si tratta di un delitto? Sì, sì, lo riconosco. Che volete? Non si può fare a meno. Ma lasciatemi continuare. Mi sembra, dicevo, che questo delitto cada soltanto su di me e non sulle vittime. Io prevedo qualche sciagura per me in tutti questi strani eventi. E quelli che hanno perso la vita, non hanno anch'essi perso qualche cosa? Il signore di Saint-Meran, la signora di Saint-Meran, il signor Noirtier... Come il signor Noirtier? Sì, sì. Voi credete, per esempio, che abbiano voluto uccidere quell'infelice domestico? No, come il Polonio di Shakespeare gli è morto per un altro. Era il signor Noirtier che doveva bere la limonata. È Noirtier che l'ha bevuta secondo l'ordine logico delle cose. L'altro l'ha bevuta soltanto per caso. Quantunque sia Barrois quello che è morto, era Noirtier quello che doveva morire. Ma allora, com'è che mio padre non è morto? Perché il suo corpo si è abituato a questo veleno. Perché la dose insignificante per lui era mortale per un altro. Perché infine nessuno sa, neppure l'assassino, che da un anno io curo con la brucina, la paralisi del signor Noirtier, mentre l'assassino non ignora e se ne è assicurato con l'esperienza che la brucina è un potente veleno. Mio Dio, mio Dio! Mormorò Villefort torcendosi le mani. Seguite le fila dei delitti. Il veleno uccide il signore di Saint-Meran, lo giurerei. Ciò che mi è stato riferito riguardo ai sintomi si accorda troppo bene con ciò che ho visto io stesso con i miei occhi. Villefort cessò di fare obiezioni e mandò un gemito. Uccide il signore di Saint-Meran, ripeté il dottore. Uccide la signora di Saint-Meran, doppia eredità da raccogliere. Villefort asciugò il sudore che gli grondava dalla fronte. Il signor Noirtier, continuò d'Avrigny, aveva non da molto fatto un testamento contro di voi, contro la vostra famiglia, in favore dei poveri. Il signor Noirtier viene risparmiato perché nulla si attende da lui. Ma non appena ha distrutto il suo primo testamento, ne ha fatto un secondo, per timore che si penta e ne faccia un terzo, viene colpito. Grazie. «Grazie per mia figlia, signore!» esclamò Villefort. «Voi stesso l'avete nominata, voi, suo padre!» «Grazie, grazie per Valentin, sentite, è impossibile, preferirei accusare me stesso, Valentin, un cuore di diamante, un giglio di innocenza!» «Nessuna grazia, signor procuratore del re, il delitto è flagrante!» «La signorina di Villefort ha impacchettato con le sue mani i medicamenti che furono inviati al signore di Saint-Meran e il signor di Saint-Meran è morto. La signorina di Villefort ha preparato l'aranciata per la signora di Saint-Meran e la signora di Saint-Meran è morta. La signorina di Villefort ha preso la bottiglia di limonata che il vecchio beve abitualmente la mattina e il vecchio è sfuggito per un miracolo. La signorina di Villefort è la colpevole, è l'avvelenatrice. Signor procuratore del re, vi denuncio la signorina di Villefort. Fate il vostro dovere. Villefort, soffocando, strinse il braccio del dottore. Ascoltatemi. Mia figlia non sarà trascinata da me nelle mani del carnefice. E se voi vi ingannaste, dottore, se fosse qualcun altro invece di mia figlia, se un giorno io venissi pallido come uno spettro a dirvi assassino, tu hai ucciso mia figlia. Vedete, se ciò accadesse, pur essendo cristiano, signor D'Avrigny, io mi ucciderei. Sta bene, disse il dottore. Aspetterò. Soltanto, se qualcuno della vostra casa cadesse malato, se voi stesso vi sentiste male, non chiamatemi, perché non verrò più. Dividerò con voi questo segreto terribile. Ma non voglio che la vergogna e i rimorsi si ingigantiscano e fruttifichino nella mia coscienza, come il delitto e l'infelicità si ingigantiscono e fruttificano nella vostra casa. Quella stessa sera, il giovane Andrea Cavalcanti stava uscendo dal suo albergo, quando fu fermato dal portiere che lo aspettava con il berretto in mano. «Signore, è venuto a cercarvi quell'uomo a cui Vostra Eccellenza ha fatto quel piccolo assegno, mi ha dato questa lettera sigillata che portava con sé». «Vediamo», disse Andrea e lesse. «Tu sai dove abito. Domani ti aspetto alle 9 di mattina». «Grazie», disse Andrea al portiere. «Preparatemi un calesse per domani mattina». La mattina dopo, Andrea suonò il campanello dell'abitazione di Caderousse. Un momento dopo, dietro la griglia praticata nell'uscio, comparve il volto di Caderousse. «Ah, sei puntuale!» fece. E così dicendo, tolse i catenacci. «Orsù, ragazzo mio!» disse Caderousse. «Guarda un po' che colazione avremo, tutte cose che ti piacciono!» Andrea sentì infatti, annusando, un odore di cucina i cui grossolani aromi non mancavano di un certo fascino per uno stomaco affamato. era la mescolanza dello strutto e dell'aglio che distinguono la cucina provenzale di classe inferiore e soprattutto l'aspro profumo del pesce fritto misto a quello della noce moscata e dei chiodi di garofano. Tutto ciò esalava da due piatti pieni e coperti posati sopra due fornelli e da una casseruola che friggeva sopra una specie di stufa. «Che te ne sembra, mio piccino?» disse Caderousse. «Eh? Che odore balsamico!» E si mise a preparare un supplemento di cipolle. «Che il diavolo ti porti!» disse Andrea con malumore. «Mi hai scomodato solo perché venissi a fare colazione con te!» «Figlio mio!» disse sentenziosamente Caderousse. «Mangiando si parla! E poi, ingrato che sei, non hai dunque piacere a vedere un po' il tuo vecchio amico? Io piango di felicità!» Caderousse infatti piangeva realmente, benché fosse difficile dire se l'irritazione alla ghiandola lacrimale fosse cagionata dalla gioia o dalle cipolle. «Allora», disse Andrea, «perché desideri che io venga a far colazione con te?» «Ma per vederti, amico mio!» «Per vedermi! E a che serve, se abbiamo già fissato le nostre condizioni?» Vedi, è perché tutta la mia felicità è guastata da un solo pensiero», disse Caderousse. «E quale?» «Quello di vivere alle spalle di un amico, io che mi sono sempre guadagnato la mia esistenza da solo». «Ah, non dartene pensiero», disse Andrea. «Ne ho abbastanza per due, non ti preoccupare. Il mio protettore è magnanimo con me». «Che caro protettore!» disse Caderousse. «Puoi ben dirlo. Mi fa un assegno mensile di 5.000 franchi». 10 volte quello che dai a me! E che diavolo ci fai di tutta questa somma?» «Mio Dio, è ben presto spesa. Preferirei avere un mio capitale». Sì, capisco. Tutti desidererebbero avere un capitale». «Caderousse, mi sei amico?» «E me lo chiedi, per la vita e per la morte!» «Ebbene, ti confiderò un segreto». «Di!» «Io credo di aver ritrovato mio padre». «E questo padre è...» «Ebbene, Caderousse, è il conte di Montecristo». «Bah! Egli mi lascia 500.000 franchi nel suo testamento». «Ne sei sicuro? Me lo ha mostrato, ma non è tutto qui». «Mi riconosce». Oh, che buon uomo è tuo padre, eh? Che bravo e onesto uomo!» esclamò Caderousse facendo roteare in aria un piatto e riprendendolo poi con le mani. «Ecco, di ancora che ho dei segreti per te». No, e la tua confidenza ti onora ai miei occhi. E dimmi il tuo nobile padre, dunque ricco, ricchissimo?» «Diamine. L'altro giorno c'era un fattorino della banca a portargli 50.000 franchi in un portafoglio grande come il tuo tovagliolo. Ieri il suo banchiere gli ha portato 100.000 franchi in oro». Caderousse era stupefatto. Gli pareva che le parole del giovane avessero il suono metallico di una cascata di Luigi. «E tu vai in quella casa?» gridò con ingenuità. «Quando voglio». Caderousse rimase pensieroso un istante. Era evidente che stava rimuginando qualche pensiero. Poi, ad un tratto... «Ah, quanto amerei vedere tutto ciò, Ed! E non abita egli agli Champs-Élysées?» «Al numero 30». «Ah!» disse Caderousse. «Al numero 30!» «Sì!» «Una bella casa isolata fra il cortile e il giardino». «Ah, all'esterno a me non importa. Chissà che bei mobili all'interno. Dovresti condurmici un giorno con te, eh? Un giorno? Com'è possibile? E a quale titolo? Tu hai ragione, bisogna che mi accontenti di lavorare di immaginazione. Ecco, cerca almeno di darmi una idea dell'edificio». «In che modo?» «Niente di più facile. È grande il palazzo?» «Né troppo grande né troppo piccolo». «Sì, va bene, ma com'è distribuito? Diamine, ci vorrebbe dell'inchiostro e della carta per fartene una pianta. Subito!» disse precipitosamente Caderousse.